Capitolo 7. Un nuovo cliente. Frank Germin, che abbiamo lasciato suonare il campanello, seguì Gertrude attraverso il corridoio di sughero della Virginia nella sala d'aspetto. Le tende interposte fra questa e lo studio vennero tirate da una parte, mostrando un'immagine affascinante. Lucy, nel suo abito nero e il suo grembiule di tela olandese, con il capo liscio chino sulla diapositiva da ritoccare. Phyllis a un tavolo ornamentale, impegnata a rifinire stampe che maneggiava con abilità e grazia. Nessuna delle due ragazze alzò gli occhi dal proprio lavoro e Frank si impossessò di una delle siede dalle gambe rosse, debitamente impressionato per la natura professionale dell'occasione. Benché, a onor del vero, è necessario confessare che da ora in poi il suo sguardo si sarebbe smarrito furtivamente in direzione dello studio e della sua piacevole prospettiva. Gertrude spiegò che erano perfettamente preparate per assumersi incarichi. Frank espose brevemente la natura del lavoro che aveva già pronto per loro e poi seguì una pausa. Era umiliante, era ridicolo, ma non meno vero, che né all'una né all'altro dei due giovani professionisti piacesse l'idea di fare allusione per primo all'inevitabile visita nello studio di Frank. Alla fine Gertrude disse: «Desiderate che venga fatto in giornata?» Sì, per cortesia, se è possibile. Ci pensò su un momento. Va fatto questa mattina? Non possiamo fare affidamento sulla luce del pomeriggio. Non posso organizzarmi per venire di persona, ma mia sorella Lucy credo di sì. Lucy? Lucy si fece il loro incontro vigile e tranquilla. Lucy, potresti prendere la macchina fotografica numero 3 per lo studio del signor Germin a York Place? Sì, certamente. Alcuni bozzetti di tessuti che vorrei venissero fotografati, aggiunse Frank con la sua aria di costante modestia. Verrò immediatamente, se lo desiderate, rispose Lucy con calma. Mi permetterete naturalmente di portare l'apparecchio, signorina Lorimer. Vi ringrazio, disse Lucy dopo un minimo di esitazione. Erano tutti oltremodo seri, e pochi minuti dopo la signora Marion, guardando fuori dalla finestra della sarta, vide un compassato giovanotto e una contegnosa giovane donna sbucare insieme dalla casa, caricate rispettivamente di un treppiede, un apparecchio fotografico e di una scatola di lastre. Vorrei esserci andata di persona, disse Gertrude in tono preoccupato, ma ho promesso alla signora Staines di rimanere qui per lei. Effettivamente è un bel giovanotto, rispose Phyllis sfacciatamente alzando lo sguardo dalle stampe. Oh, Phyllis, Phyllis, non parlare come una cameriera. Dico, Gertie, che è delizioso non avere accompagnatori, non trovi? Phyllis, come ti permetti? Gridò Gertrude, contrariata. Il decoro era un argomento che lei aveva sempre trovato giusto lasciare a se stesso, un argomento su cui odiava più di ogni altra cosa discutere. Nondimeno, il suo pur non convenzionale senso di convenienza venne un tantino turbato nel vedere sua sorella camminare fuori casa con un giovane estraneo, diretti insieme nello studio di quest'ultimo. Si sentì piuttosto sollevata quando un'ora dopo Lucy fece la sua apparizione nella sala d'aspetto, fresca e radiosa per la sua camminata. La signora Staines è venuta e se n'è andata, disse Gertrude. Era terribilmente in ansia. Ma che ne hai fatto della numero 3? Oh, ho lasciato la macchina a York Place. Domani devo andare di nuovo per fare qualche scatto per il signor Oakley che divide lo studio con il signor Jeremy. Acqua tutta forza per il nostro mulino. Ma vieni qui e parliamo seriamente, Lucy. Va detto che Phyllis, che non rimaneva mai a lungo nella bottega, era uscita per una passeggiata con Fan. Allora, disse Lucy, tenendosi in equilibrio contro il cancello a 5 sbarre, ultimo dono di Fred Devonshire, prontamente battezzato da Phyllis l'elefante bianco. Allora, signorina Lorimer, sto per affrontare un argomento spiacevole. Ti rendi conto che quest'ultimo sviluppo dei nostri affari probabilmente darà seguito a certi commenti? La gente chiacchiererà, come dice Fan. Oh, sì, me ne rendo conto. Non essere così sprezzante, Lucy. È sconveniente, lo sai. Naturalmente lo è, e lo siamo anche noi. È troppo tardi per discutere del nostro pane quotidiano. È solo un problema di consuetudine, non è vero? Chiese Gertrude, più ansiosa di convincere se stessa che la sorella. Sia che un uomo venga nel suo studio e si presenti, sia che il tuo ospite te lo presenti a una festa, è all'incirca la stessa cosa. In entrambi i casi sta a te adoperare il giudizio nei suoi riguardi. E sia che passeggi per strada con te o che metta il braccio intorno alla tua vita e a passo di valzer ti conduca in qualche serra distante, fa davvero poca differenza. In entrambi i casi è probabile che non si conosca nulla di lui. Sono sicura che la metà degli uomini che abbiamo conosciuto ai balli potrebbero essere stati merciai come ladri di professione, per quanto ne potevano sapere i loro ospiti. In realtà si dà il caso che noi del signor Jermyn qualcosa invece sappiamo. Non ho nulla da dire contro il signor Jermyn personalmente, sono sicura che sia una persona a modo, perché mai la mia fervida immaginazione vedeva come si profila a distanza il nostro lavoro. Era completamente diverso con il signor Lawrence, lo sai, disse Gertrude, le cui argomentazioni le apparivano plausibili più che fondate. Una cosa può condurre a un'altra. Sì, questo è sicuro, esclamò Lucy, che vedeva un'opportunità per sottrarsi all'odioso argomento del decoro. Quest'oggi, per esempio, con il signor Oakley. A proposito, è un uomo di mezza età, Gertie, ed è sposato perché ho visto sua moglie. Entrambe risero, infatti potevano permettersi una risata perché dal punto di vista finanziario il mattino era stato insolitamente soddisfacente. La profetica visione di Gertrude quanto alle prospettive del lavoro di bottega si rivelò, almeno per i pochi giorni seguenti, non essere un infondato prodotto della fantasia. I due artisti di York Place le tennero così impegnate su modelli, bozzetti e arrangiamenti di tessuti che le mani delle ragazze erano occupate dalla mattina alla sera. Naturalmente questo stato di cose non durò, ma Frank fu così prodigo di consigli, così genuinamente colpito dalla qualità del loro lavoro, così ansioso di raccomandarle ai suoi compagni d'arte, che i loro animi si levarono alti e la speranza, che per un certo periodo era loro mancata, risorse come un prode assopito nei loro petti. Con modi decisamente semplici e rispettosi, il giovane della Cornovaglia iniziò a nutrire un profondo e manifesto interesse per lo studio fotografico e si aspettava dal canto suo che una certa somma di interesse venisse nutrita anche per il proprio lavoro. Frank, come Connie aveva detto, lavorava principalmente in bianco e nero. Al momento aveva un ingaggio come illustratore di una storia a puntate per il Woodcut, ma in proprio aveva tempo per una gran quantità di lavoro in più. Tempo che impiegava a dipingere quadri che il pubblico si rifiutava di comprare, sebbene i comitati fossero spesso desiderosi di esporre. Se solo volessero inviarmi sul fronte di qualche orribile piccola guerra, diceva, non c'è nulla come l'essere inviati speciali per far sì che un uovo abbia successo con i redattori delle riviste illustrate. Non c'è nulla come il sale di sani interessi oggettivi per preservare il valore della natura morale. Davanti alla percezione della reciproca onestà, le deboli barriere del pudore che entrambe le parti avevano ritenuto giusto alzare in un primo momento, caddero senza far muovere fra i giovani, per non essere rialzate mai più. Nel bene o nel male, questi fanciulli smarriti andavano alla deriva insieme nel forte flusso della vita londinese. Per quanto tempo la corrente avrebbe continuato a portarli fianco a fianco in quel modo? Per quanto tempo, in verità? Sarebbero proprio rimasti a galla fra queste acque? Era una domanda con la quale per il presente non volevano tormentarsi. Nessuno seppe bene come accadde, ma prima che un mese fosse trascorso, per Frank era divenuta la cosa più naturale del mondo fare un salto da loro a orari inaspettati, condividere i loro semplici pasti, chiedere e ricevere pareri sui rispettivi lavori. Fanny aveva accettato la situazione con sorprendente pazienza. Pudica, al limite dell'insania per quel che la riguardava, aveva imparato a guardare le sue sorelle risolute come creature emancipate dalle ordinarie consuetudini del loro sesso, come estranei ai vantaggi e agli svantaggi della galanteria, proprio come la vecchia che spazzava all'incrocio vicino alla stazione di Baker Street. Forse pure trovava la vita in questo periodo un po' noiosa e diede il benvenuto nella sua maniera a un nuovo e piacevole diversivo nella persona di Frank Jermyn. Comunque fosse, Fanny non creava problemi e gli scrupoli, sempre in agguato di Gertrude, riposavano in pace. Una luminosa mattina sul finire di gennaio, Gertrude scarrozzava verso casa sulla cima di un alto omnibus verde, con i capelli mossi allegramente dal vento e le mani senza guanti strette su un voluminoso taccuino. Frank, che passava di lì con indosso un grembiule da pittore e un cappello di feltro, si strappò quest'ultimo dalla testa e lo sventolò esageratamente in segno di saluto. Un gesto che evocò un sorriso di risposta da parte della persona cui il saluto era indirizzato, ma che ricevette ben altra accoglienza da parte di un'altra persona a cui capitò di esserne testimone e alla quale certamente non era stato rivolto. non era altri che zia Caroline Pratt, che per la costernazione di Gertrude era passata come una furia a bordo di una carrozza aperta, con uno sguardo di indicibile orrore sull'avvenente volto equino. Dunque, è impossibile rimanere dignitosi sulla cima di un omnibus, e Gertrude ricevette una glaciale occhiata di disconoscimento, avvertendo l'umiliante consapevolezza degli svantaggi della sua posizione. Con il cuore che sprofondava, lasciò furtivamente il suo posto sulla vetta, quando l'omnibus si fermò all'angolo e camminò a testa bassa fino al numero 20B, davanti alla porta del quale la carrozza, priva del suo passeggero, stava sostando. Zia Caroline non le aveva disturbate più di tanto in quei giorni e, domandandosi cosa l'avesse portata lì, Gertrude fece il suo ingresso nel soggiorno, dove l'ospite si era già accomodata. «Come state, zia Caroline? E tu?» Gertrude, dove sei stata questa mattina? Al British Museum. Gertrude avvertì tutte le vecchie resistenze sollevarsi dentro di lei a quella presenza stridente, esistenze che assicurò a se stessa essere irragionevoli. Cosa importava ciò che zia Caroline aveva da dire a questo punto? Era stato diverso quando erano bambine. Diverso persino in quel primo momento di dolore e preoccupazione, quando la zia aveva allungato il suo ruvido tocco sui loro animi turbati. Eppure, alla fine, zia Caroline non era una presenza a cui si poteva in qualche modo passar sopra. «È l'una e mezza», disse zia Caroline, consultando il suo orologio. «Non avete intenzione di pranzare?» «È apparecchiato in cucina», spiegò Lucy, «ma se vorrete rimanere, possiamo mangiare qui». «In cucina?» È necessario abbandonare le abitudini delle gentildonne perché siete povere? Una cucina senza un cuoco è il posto più adatto del mondo per una gentildonna. La signora Pratt non si degnò di rispondere a questa esclamazione, ma si rivolse a Lucy. Nessun pranzo, ti ringrazio. Vi dirò subito che sono venuta qui con uno scopo, unicamente, infatti, per ragioni di dovere. Gertrude, forse la tua coscienza può illuminarti su cosa mi porta qui? In verità, zia Caroline, sono perplessa. Sono venuta, continuò la signora Pratt, mal disposta a tollerare qualsiasi cosa tu possa dire. Gertrude, è a te che mi rivolgo, sebbene, data l'età di Fanny, è lei l'unica che avrebbe dovuto prevenire questo scandalo. Non riesco affatto a comprendervi, disse Gertrude con ritegno. La signora Pratt alzò il suo indice guantato con l'aria di dover impartire un esperto consiglio. O non è vero che avete stretto conoscenza con un giovanotto che abita di fronte a voi, che entra e esce dal vostro appartamento a tutte le ore e che voi lo seguite nel suo studio? Sì, disse Gertrude lentamente, arrossendo in modo inequivocabile. Se intendete metterla in questa maniera, è vero. Che vi recate in luoghi pubblici con lui? Andò avanti zia Caroline. Che siete state viste, due di voi e questa persona, nei palchetti più alti di un teatro? Sì, è vero, rispose Gertrude, e Lucy, consapevole della tempesta che stava per arrivare, avrebbe voluto prendere la parola, ma Gertrude la fermò. Lasciami parlare, Lucy. Forse, dopo tutto, dobbiamo qualche spiegazione a zia Caroline. Zia, come posso trovare le parole giuste per farvi comprendere? Abbiamo ripreso in mano la nostra vita da una prospettiva diversa, l'abbiamo ricominciata su basi diverse. Noi siamo povere e stiamo imparando a scoprire i piaceri della povertà, ad avvicinare la felicità da un altro lato. Non abbiamo nessuna delle convenzionali opportunità sociali, per esempio, ma dobbiamo per questo rinunciare a tutti i divertimenti della società? Dite che noi seguiamo il signor Jermyn nel suo studio, ma abbiamo il nostro sostentamento da guadagnare e non meno le nostre vite da vivere, e in nessuno dei due casi possiamo permetterci di essere schiave delle convenzioni. I nostri cari devono aver fiducia in noi o lasciarci perdere, devono fare assegnamento sul nostro decoro e sul nostro giudizio. Convenzione a parte, e non è sul giudizio e sul decoro che la maggioranza di noi affonda i propri rapporti umani. Quali che siano le circostanze, Era solo l'essere rimasta senza parole per la collera ad aver impedito a zia Caroline di interrompere prima l'eroismo della povera Gertrude, ma a questo punto ritrovò la voce. Rigidamente seduta e guardando con durezza la nipote con un'espressione decisamente spiacevole negli occhi gelidi, si espresse in toni furiosi. Fanny è una sciocca e le altre sono delle bambine, ma nemmeno tu, Gertrude, capisci cosa significa perdere la reputazione. Questo era troppo per Gertrude. Si alzò in piedi. Zia Caroline, dichiarò. Avete ragione. Lucy e Phyllis sono molto giovani. Non è bene che ascoltino una conversazione simile. Se intendete andare avanti, chiederò loro di uscire. Ci fu una pausa. Le due controparti, livide e ansanti, stavano l'una di fronte all'altra. Allora Lucy andò dalla sorella e le prese la mano. Fanny singhiozzava, Phyllis lanciava occhiate all'una e all'altra con gli occhi che brillavano. Dunque, la condotta di Gertrude era stata chiaramente irresponsabile. Un'aperta sfida, non meno di una servile remissività. Sarebbe stata capita e apprezzata dalla signora Pratt. Ma Gertrude, come Lucy, che segretamente ammirava l'eloquenza delle sorelle, aveva all'improvviso capito, aveva parlato in una lingua che zia Caroline non poteva comprendere. In quei giorni, non miracolosi, fare appello ai sentimenti più nobili o alle percezioni della sua immaginazione era come battere la roccia per farne uscire l'acqua. Se non volete darmi ascolto, disse assumendo tutto a un tratto un'aria affaticata e debole, è da vedere se non possa farvi cambiare idea vostro zio. Io non sono in grado di portare oltre la discussione. Ignorando intenzionalmente Gertrude, strinse le mani delle altre ragazze. Indignata com'era, i loro abiti logori e la miseria degli arredi la impressionarono. La povertà le sembrava la peggiore delle disgrazie umane, né aveva pietà più di quanto la disprezzasse. Con Lucy, infatti, che l'accompagnò per le scale, assunse dei modi più morbidi e benevoli e si trattenne sulla soglia solo per chiedere, con una certa dose di curiosità sotto la malizia affettata del tono. Ebbene, quanto avete guadagnato ultimamente, ragazze insolenti? Lucy evase la domanda con decisione e con un sorriso, e zia Caroline se ne andò via ridendo, rifiutandosi, come il prode guerriero che era, di riconoscere che era stata sconfitta. Ma era lontano il giorno in cui avrebbe tentato di nuovo di interferire negli affari delle Lorimer. Forse sarebbe stata più propensa a rinnovare l'attacco se avesse saputo quanto in verità Gertrude era stata addolorata e turbata dalle sue parole.